di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori dei Colori dell'Anima. Siamo in studio ancora con voi lunedì 2 febbraio 2015 con una nuova puntata tutta frizzante, tutta per voi. Buonasera, buonasera Bruxelles! Ed eccolo con noi Leandro, e questa sera vogliamo abbracciare forte forte forte la nostra Tiziana, che ciao, è in Tiziana. Sicilia. Ciao Tizi, a presto! Ti aspettiamo un grandissimo abbraccio. E sì, un grande abbraccio anche a Serena, che anche lei ci sta ascoltando, la nostra compagna di viaggio. Stasera non sarà nemmeno lei con noi, ma abbiamo dei grandissimi ospiti, ragazzi, dei grandissimi ospiti. Esatto, una puntata specialissima, esatto. Questa. Qua dincia si mori cavudu, già vi dico solo questo, cioè c'è molto caldo perché la stanza è molto piena di persone. Dunque, praticamente vorrei invitarvi a collegarvi alla nostra pagina Facebook Rossella, Leandro e Tiziana On Air. Mandateci i vostri commenti, mandateci i vostri like, e abbiamo ancora un numero di telefono al quale chiamarci, lo 02 345 2656, e siamo in diretta, ricordiamolo, dalla Maison de Culture de Saint-Gilles. Ecco, e poi... E poi che Leo, cos'altro? C'è una cosa che il nostro, che freme, il mio cellulare, che freme. Se volete mandare sms, 0486 941 1129, 0486 941 1129, non è una chat erotica, è Radio Alma. Per cui, ragazzi, mandate sms, telefonate, Rossella, virgola, Tiziana e Leandro Neir per Facebook. Bedda maggi. Ragazzi, abbiamo una grande notizia, non so se voi lo sapete, ecco. Ma abbiamo Presidente della Repubblica Siculo! Abbiamo Presidente della Repubblica Siciliano di Palermo, i carusi di Palermo, come pane cameusa, come le arancini che teranno. E noi siamo ben felici, facciamo gli auguri al però nostro signor nuovo presidente, presidente, vi dobbiamo dire una cosa: io sono di Taormina messinese, Tiziana è catanese, vi diciamo una cosa: gli arancini non si dicono arancine, si dicono arancini. Una cosa importante, l'unica cosa, c'è un muro tra Sicilia orientale e Sicilia occidentale, tra il nome, come si dice, come si appella l'arancini? Arancini, se dicono arancini si chiamano arancini, non arancina, chi su sta arancina? Allora, preghiamo chiunque sia in ascolto di portare una camomilla immediatamente in allo studio di Radio Alma, perché Leandro è una furia stasera, come il nostro Presidente della Repubblica, che si sa vai, che è tutto spumeggiante, parla assai, dice non sta un momento zitto. Ragazzi, allora, per trovare una parola del Presidente Sergio Mattarella, non so, ho dovuto trovare un video di YouTube del 2010. E cosa dice questo video? E allora dice il nostro Presidente, che in attesa del suo discorso inaugurale, diceva questo: allora, studiare insieme, rammentandosi ovviamente dei tempi in cui studiava, studiare insieme, vivere insieme un'esperienza di classe, di comunità e di studio, mi ha aiutato a comprendere le esigenze, i problemi e le attese degli altri. Si cresce se si cresce insieme, ci si realizza se ci si realizza insieme. Si è davvero liberi dall'ignoranza, dal bisogno e dalla violenza, se liberi sono anche gli altri. Allora, signor Presidente, tanti auguri! Auguri. Viva l'Italia, viva la Repubblica! Grazie Leandro per queste belle parole. In realtà si collegano molto bene alla puntata di questa sera, al tema che tratteremo. Perché chi si è collegato ha visto un po' che il titolo di questa sera è un selfie alla tua anima. Quindi un titolo un po' misterioso, diciamo, che sveleremo insieme a voi tra poco e con un ospite molto particolare. Ma Leo, tu come te lo immagini un selfie alla tua anima? Cioè, tipo una radiografia o tipo un dipinto? Ma la radiografia, che non ne lo so, un selfie alla tua anima. Ci ripensiamo un po', intanto ci sentiamo una canzone. Ok, basta che non si chiediamo... vede che ho mangiato un panino quando si fa la radiografia. Ciao! Mandiamo subito la canzone di Arisa, Malamore No! Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. E rieccoci in studio dai Colori dell'Anima. E quindi, come dicevamo, per chi si è sintonizzato all'inizio della puntata, questa sera abbiamo un titolo tutto particolare che si chiama Un selfie alla tua anima. E abbiamo con noi in studio la cara Manuela. Ciao Manuela! Ciao Rossella, buonasera a tutti. Senti, mi sa che sei proprio tu la persona alla quale vorrei fare questa domanda. Ma che è un selfie della tua anima? Perché selfie, ok, è una parola che ormai va molto di moda, diciamocelo. Però pensare di fare un selfie alla propria anima ha un significato un po' diverso dal solito selfie. Hai perfettamente ragione, Rossella. In realtà abbiamo voluto utilizzare il termine selfie in una maniera del tutto nuova rispetto a quello a cui siamo abituati. Ci facciamo selfie dappertutto, ormai è di gran moda. In realtà fare un selfie alla propria anima significa andare oltre le apparenze. Ok, allora iniziamo ad avvicinarci al tuo tema. Come si va oltre le apparenze? Manu, tu ci hai detto in realtà noi, hai usato il plurale. Chi sei? Che cosa fai, Manuela? Dici tutto. Allora, parlare di me è sempre difficile, sai che noi coach... Lo dico io, è una spumeggiante ragazza siciliana che fa la coach. Come, sì? Siciliana è? Vabbè, beddamato, fermatelo. Siamo tutti siciliani, no, aspetta, come sei pure tu, fermatelo, sicula. Fermatelo. Ecco, grazie Leandro, abbiamo tolto l'audio. Manu, dicevi... Beh, in effetti sì, è un buon inizio. Siciliana è la monotonia di questa puntata, delle nostre trasmissioni, quindi andiamo avanti. No. Sì. In realtà sono siciliana di adozione, ma meridionalissima, okay. Quindi mi sono divertita tantissimo nella vostra entrée. Ci divertiamo, forse solo noi a volte ci chiediamo, ma per fortuna no, stiamo scoprendo bene. E poi mi occupo di coaching. Ma che cos'è il coaching, Manu? Perché coaching se ne sente parlare tanto, però probabilmente è una di quelle parole che il vero significato non è proprio molto chiaro. È verissimo, soprattutto in Italia ancora non c'è una cultura abbastanza diffusa del coaching, che invece è uno strumento, è un veramente eccellente per poter arrivare a un obiettivo o per poter chiarirsi degli obiettivi anche quando in realtà non se ne hanno. Mi viene da pensare a un personal trainer, no? Se tu pensi a un coach, pensi a un personal trainer, a qualcuno che ti accompagna in uno specifico obiettivo, come dici tu. Esattamente. Allora, il coach è la persona che ti accompagna a raggiungere una determinata meta o anche a identificarla a partire da dove sei oggi. Quindi anzitutto fare un selfie alla vostra anima o alla tua anima significa individuare veramente a che punto sei, quindi fare un punto nave, come si suol dire. E identificare forse appunto dove vuoi andare, perché tu dicevi quando di un coaching come un percorso, e che Manu riflettevamo insieme che questa parola coach viene dalla carrozza, dai, sì, è bellissima questa immagine. Esatto. È la carrozza. L'etimologia è proprio questa. Quindi no? È praticamente questo verbo che esprime questo accompagnare questo viaggio che si fa. E che a volte porta anche a arrivare a mete differenti da quelle che si sono immaginate inizialmente. Certo, anche perché non penso che tutti abbiamo chiaro quali sono le nostre mete, poi probabilmente non tutti ci mettiamo lì a chiederci io dove sono, sì, verso dove vado, quindi è forse qualcosa che può attirare le persone che sono in un particolare momento della propria vita, immagino. Sì, le persone che soprattutto sono... si mettono in discussione e identificano veramente la voglia di evoluzione, vogliono cambiare, stanno attraversando una fase di cambiamento, quindi ci sono persone che per esempio o hanno cambiato paese o hanno cambiato città o anche lavoro o stato sociale, uh-huh. E quindi si ritrovano veramente a volte disorientati in questo cambiamento e a voler essere sostenuti, accompagnati. Ecco perché selfie alla propria anima, perché quando ci facciamo un selfie cosa facciamo? Anzitutto, scattiamo una foto, quindi è un momento ben preciso, ben specifico, siamo in un qui e ora. Chi siamo oggi non è la stessa cosa. Se tu mi domandassi domani o tra una settimana, probabilmente ti descriverei Manuela in maniera diversa. Chiaro, e invece io vorrei sapere chi era Manuela ieri, com'è che sei arrivata qui? Perché Manu, tu mi dicevi che hai abitato a Milano e sì. Sei venuta qui 3 anni fa... E ha iniziato questo percorso, appunto, già da molto tempo in realtà, perché appunto prima lavoravi in un'azienda, mi raccontavi. Sì, sì, io ho lavorato per le risorse umane e mi occupo di formazione e di coaching da una 15 anni ormai. Ho sempre fatto questo nella vita perché... È la mia passione, ecco. Le persone sono, sono la mia passione. Bene, siamo felici. Sì, devo dire che non potrei fare altro nella vita, per cui a un certo punto ho deciso che questa era la mia strada, ho cominciato come formatrice e poi pian piano mi sono resa conto che nel mio fare formazione mi avvicinavo più ad una modalità di coaching, perché in realtà nel coaching l'attenzione è più al singolo e quindi ai suoi obiettivi specifici, ai suoi bisogni specifici e a chi la persona è. Ok, senti, ma invece questo corso, questo Il Selfie della tua anima, è un percorso che tu fai qui a Bruxelles, perché rendiamolo chiaro, cioè Emanuela sì. stava a Milano, ma appunto la sua passione l'hanno condotta fino a Bruxelles e l'hanno condotta a diventare indipendente, ad aprire la sua, come la possiamo chiamare, la tua associazione, la tua... Sì, il Coaching Style Club, il Coaching Style Club è una... Scusate per i nostri anglicismi, amici italiani, però non va niente, stasera sono ammessi. Sì, il Coaching Style Club è un progetto che ho lanciato prima di Natale, anzi immediatamente i giorni prima, precedenti il Natale, e che consiste proprio nella voglia, nella mia voglia di diffondere l'approccio del coaching a tutti, quindi rendere il coaching non più uno strumento riservato a pochi, riservato alle aziende, ma al contrario uno strumento che possono utilizzare veramente tutti. Uh-huh. Quindi uno strumento che allena a domandarsi e a domandare e a farsi le domande più funzionali per scoprire ciò che si ha bisogno di scoprire. Manuela, è molto interessante quello che dici. Penso che chi ci sta ascoltando si starà domandando, ma io me le faccio le domande? E mi do pure le risposte! Ed eccolo. Sì, perché poi bisogna stare attentissimi a che tipo di domande ci si fa. Ecco che a volte ci domandiamo, ad esempio, perché è successo questo, perché mi sono comportata così, ma perché l'ho detto. Quindi sì, facciamo delle domande. Anche arrivano queste domande, se no saremmo veramente sì, immobili e fissi. Farsi domande nostre... è sempre bello. Al tempo stesso, veramente c'è un'attenzione a quali tipi di domande, perché se ci chiediamo perché, sono domande colpevolizzanti. Al contrario, noi abbiamo nel coaching abbiamo voglia di trasformare la prospettiva in una prospettiva risolutiva. E allora, in questo messaggio di positività, mandiamo subito una canzone, ragazzi e ragazze, anzi Caruso e Carusi, picciotte e picciotti, e qua c'è Celia Cruz, La vida es un carnaval. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Allora, questa sera una trasmissione veramente speciale per chi si è sintonizzato adesso. Parleremo di selfie, ma di selfie speciali, selfie alla propria anima. Abbiamo la fortuna di avere in studio una simpaticissima coach che praticamente ci parlerà un po' di se stessa e del suo lavoro. Allora, praticamente, dicevamo Manuela, allora, il coaching, eccoci qua. Ecco, io volevo chiedere una domanda, stavo pensando, Manuela De Simone, perché non abbiamo detto il tuo cognome, scusateci, scusami soprattutto, perché per te è importante che la gente ti conosca. Ah, ma abbiamo anche un sito, lo possiamo dire, abbiamo pure un sito. Abbiamo un sacco di cose. Abbiamo anche un sito che parla cioè, di Manuela. Abbiamo tutte. Sì, che tra l'altro lo pubblicheremo, come al solito, sulla nostra pagina Facebook, il tuo sito, così che chi fosse interessato a contattarti, insomma, trovi un collegamento chiaro. Però io vorrei sapere, tu Emanuela, come sei arrivata qui a Bruxelles? Perché abbiamo fatto una panoramica veloce. Sì, le due domande sono collegate. Allora, anzitutto, grazie per il tuo invito a mettere il sito coachingstyleclub.com sulla tua pagina Facebook, sulla vostra pagina Facebook, perché è vero che mentre a Milano ormai, dove ho vissuto per circa 10 anni, avevo i miei clienti, le persone che si erano legate a me, quindi con cui avevamo stabilito una vera sintonia, parlo di aziende soprattutto, perché all'epoca mi occupavo soprattutto di coaching aziendali. Oggi a Bruxelles mi sto facendo strada, strada nella comunità di italiani a Bruxelles, e quindi il mio obiettivo è quello di diffondere anche in una città come Bruxelles la cultura del coaching agli italiani. Ecco, perché sono loro i tuoi destinatari. Chi è il tuo destinatario? Chi è il destinatario dei tuoi corsi, dei quali adesso ci racconterai, perché appunto andiamo un po' sul sodo adesso. Assolutamente. Allora, si tratta, intanto rispondo alla prima domanda. Sì. La prima domanda era come sono arrivata a Bruxelles. Sì. E ci sono sono arrivata perché ho fatto una scelta d'amore, ho seguito mio marito e sono venuta insieme alla mia splendida bambina Sofia, proprio in questa bella città che ci ha accolti calorosamente, devo dire. Nonostante il freddo ghiacciale polare. E quindi ecco, mio marito ha avuto questa bella occasione e così ho scelto da un giorno all'altro di lasciare almeno momentaneamente la mia vita a Milano per poter fare un'esperienza nuova, un'esperienza internazionale e dare anche alla mia famiglia la possibilità di farla. Ho capito. Ok, ok. E invece raccontaci un po' dei tuoi corsi, perché appunto abbiamo dato il titolo a questa trasmissione, Un selfie per l'anima, perché è un corso che partirà a breve a Bruxelles nei prossimi mesi, quindi da febbraio a marzo, in 6 moduli. Adesso ci spiegherai un po' di più tu, però ecco, vorrei che dicessimo insieme a chi è rivolto questo corso e ad esempio se ci sono delle presentazioni, se c'è un modo per informarsi un po' più nello specifico. Grazie Rossella. Allora, di fatto è un percorso che abbiamo pensato per tutte le persone che parlano italiano, anzitutto, quindi italiani e non solo, perché ci sono tante persone che sanno la lingua italiana pur non essendo italiani. Ovviamente gli italiani sono il nostro destinatario per eccellenza, il nostro pubblico per eccellenza, e sono tutte quelle persone che si trovano in una fase di cambiamento, come dicevo prima, e abbiamo pensato a questo percorso perché ho vissuto in prima persona cosa significa vivere un cambiamento, e un cambiamento via l'altro, perché quando sono arrivata a Bruxelles devi sapere che la mia bambina aveva solamente un anno, mm-hmm. e lei ha imparato a camminare qui, e quindi immagina una mamma che arriva, che è già la sua prima figlia, quindi ha vissuto un grandissimo cambiamento. L'anno prima si è sposata e si ritrova anche lì a cambiare città. Proprio uno dietro l'altro. Sì. Esatto, e questi cambiamenti ti mettono in questione anche a livello di identità, ti fanno porre tante domande. Mi sono ritrovata veramente a non avere il mio gruppo di amici, a non avere il mio gruppo di riferimento, di appartenenza professionalmente, e ho potuto, perché è stato un lusso, ripensarmi. Mm-hmm. E questo è a volte per me è stato un lusso, ma alcune persone lo vivono invece in maniera molto più complicata. Però bisognerebbe un po' volersi più bene e concedersi lussi un po' più spesso, però è un lusso che ha un prezzo, nel senso che comunque andare ad analizzare cosa va, cosa non va, sì, non è così non è un percorso comodo, probabilmente. Sì, stavo pensando proprio allo stesso aggettivo, è vero, non è un percorso comodo, perché ogni volta che ci si mette in discussione si esce dalla propria area di comfort e quindi si fa un passo al di là delle proprie abitudini di pensiero, abitudini di comportamento, sì. Però è uscendo dalla propria zona di comfort che poi si allarga questa zona di comfort, quindi ci troviamo finalmente a pensare anche in maniera diversa dal solito. Certo, e quindi possiamo probabilmente mettere in atto quel cambiamento che tanto desideriamo, ma probabilmente non si sa mai da dove partire, perché cambiare è una parola così grossa, invece bisogna stare lì un attimo ad analizzare e poi fare dei piccoli passetti. Invece parlaci un po' di questo percorso, perché poi tra l'altro vedevo che le sessioni sono ogni mese, quindi c'è un po' di tempo tra un modulo e l'altro, raccontaci un po'. Sì, è un percorso che abbiamo articolato in 6 moduli, proprio perché quando si affronta un cambiamento, il cambiamento non è mai, come dicevamo, comodo, e ci vuole un po' di tempo, ci vuole il tempo per scoprire delle cose di se stessi, quindi per scattarsi questo famoso selfie, per scoprire le proprie resistenze, i propri ostacoli, ma anche le proprie risorse. E certo, perché non è che abbiamo solo problemi, siamo una montagna di risorse anche. Che a volte non vediamo. Non vediamo, ci vuole qualcuno che ti aiuta a tirarle fuori, era questo che tu mi dicevi, un po' questo il ruolo del coach. Esattamente, e noi abbiamo pensato a questo percorso che è un percorso di gruppo, e quindi utilizzeremo le risorse mie, della mia collega e carissima amica Maria Serena Ciambellotti, con cui stiamo progettando il percorso e che sarà presente con me durante la formazione, come formatrice e coach anche lei, e poi abbiamo la risorsa del gruppo. Ah, quindi appunto tu mi spiegavi che questo percorso è in realtà fatto in gruppo, non personalmente. Però perché? Perché uno la prima cosa che pensa è al personal trainer, quindi dice io e lui, vabbè, ecco, io me lo immagino come lui, magari uno si immagina come lei, ma comunque... Io mi immaginerei più come lei. Ecco, lo sapevo. Mi dispiace, non so se sposo i canoni della personal coach, no, che ha in mente Leandro. Un'altra questione molto più interessante in realtà, il gruppo versus il singolo, perché appunto un percorso di gruppo, Manu? Sì, perché nel gruppo c'è una risorsa in più che è veramente fatta da tutte le altre persone, dall'altro, tra virgolette. Cosa significa? Che quando io racconto un pezzo della mia storia, faccio l'esperimento di essere veramente ascoltato. E non è dei nostri giorni, ultimamente andiamo troppo di corsa per ascoltarci reciprocamente. E poi gli altri mi danno un feedback. Quindi noi forniamo degli strumenti e delle tecniche per dare un ritorno all'interno del gruppo che sia sano, che sia costruttivo per la persona. E quindi riceviamo il feedback degli altri e vediamo anche la nostra situazione da altre prospettive. Quindi ci arricchiamo. È una parola che mi piace molto, questa, prospettive, perché appunto noi spesso vediamo soltanto con i nostri occhi, con i nostri preconcetti e abbiamo bisogno forse, no, senza forse, abbiamo bisogno degli altri, abbiamo bisogno appunto di stare in un gruppo, di, mi piace molto la parte sociale di questo percorso. Sì, oltretutto le persone che stanno affrontando un cambiamento, sto pensando a tutte le espatriate per esempio, probabilmente perché anch'io lo sono, possono vivere anche un momento di solitudine, quindi quando fai un cambiamento attraverso una fase veramente di evoluzione grossa, puoi aver bisogno del gruppo anche a livello energetico, quindi di qualcuno che ti accompagni, da un lato dei coach professionisti che non ti facciano domande a caso, ma che ti accompagnino in una maniera, in una forma che ha una struttura. Infatti tu mi dicevi che proprio c'è una certificazione da coach, non lo sapevo. Sì, quindi sì, non sì. È che uno dice, oh, ma oggi faccio il coach, vai. Sì, no, diciamo che ci sono molti coach che si improvvisano, è vero anche che invece c'è una federazione, c'è la Federazione Internazionale del Coaching, e quindi ci si può certificare, e questo fa anche la differenza tra una persona che si improvvisa e una persona che veramente ha fatto un percorso di studi, oltre che umano, e di esperienze. Certo, perché appunto tu ci raccontavi che è un periodo molto lungo della tua vita che hai dedicato a questa tua passione. Assolutamente sì. Senti Manu, invece chi è che vorrebbe avere più informazione? Dove può venire? Vorrei allora, che dicessimo le date, così sì, cominciamo... un po' di date, un abbiamo po' di tante date questa sera, quindi allora, prendete le agende tutti. Prendete tutti agende, carta e penna, perché vi invito con grande piacere a due aperitivi di presentazione che stiamo organizzando, durante i quali vi daremo tutti i dettagli. Quindi date, chi siamo, venite a conoscerci, venite a vedere e a assaggiare anche cose buone, perché giovedì 12 febbraio alle ore 18 saremo alla Piola Libri. Chi è italiano immagino che conosca, no, il posto. No, assolutamente. Scusami, però io vorrei fare una puntualizzazione, quella di Schumann o quella di Place Châtelaine? Rue Franklin. Ok, allora quella mi per la precisione. Très bien. E dopo venerdì 13... Quindi il giorno dopo, per chi non si è potuto venire il giovedì, dalle 18 alle 20 saremo da Belli e Buoni. Dov'è Belli e Buoni invece? È in Avenue Thierry Rennes. L'ho detto bene, no? Sì, sì, benissimo. L'ho detto un po' data tesca, ma la gioco abbastanza in casa perché è un quartiere che amo. Ah, ecco, un quartiere molto bello, tra l'altro, uno dei più belli verdi di Bruxelles. Esatto. Venite numerosi perché avrete l'occasione di conoscere Manuela, che devo dirvi dal vivo, veramente ha uno splendido sorriso che penso che stia trasmettendo anche in radio, però dal vivo è anche veramente più bello da vedere. Grazie, Leandro. Andate numerosi. Prendo e porto a casa, vengo più spesso a trovarvi. E poi una cosa bella che mi veniva da, insomma, che ho ascoltato dalle più volte, la parola persone, no? La cura verso le persone, e questo è una cosa veramente importante, soprattutto nel mondo in cui viviamo oggi e soprattutto fra noi italiani. Carusi, Caruse, sentite, è il momento di un'altra canzone, di un'altra che ci fai canzone. Sentire Leo, mettici e allora qualcosa. Vi faccio ascoltare questa volta Dolce Nera, il mio amore unico. Buon ascolto, ragazzi. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Ciao ragazzi, ciao carissime caruse e carusi, amiche e amici. Allora, eccoci qua di nuovo con una puntata veramente densa di cose belle, di cose veramente belle, di persone belle che abbiamo qua in studio. Ma intanto ragazzi, vi voglio dire che già hanno cominciato a scrivere e c'è una certa Maria che dice forza Manu e dice e c'è praticamente... Sia. Come, come? È la nostra Maria Spezia. Ciao Maria. Da Bergamo. E certo. ciao Maria, ciao carissima. E poi oggi è il compleanno di Leopoldo che è stato nostro ospite tempo fa, tantissimi auguri, auguri Leopoldo. E qui su Facebook arrivano tanti like e tanti saluti, saluti da Serena Ferti che ci ascolta, da Riccardo Lalomia che praticamente è suo marito, da Antonio Di Carlo e ancora da Tiziana e ancora da Elisabetta. Da Tiziana che dice all'inizio fermatelo, chissà chi si riferisce. Ma io un'idea ce l'avrei, vabbè comunque... E poi ancora da Dino Corbo che ci segue sempre, salutiamolo, grazie Dino che ci segui. E ancora un abbraccio grande grande a Cristina da Milano. Insomma questa sera ci seguono in molti, siamo contenti perché a volte noi ci domandiamo ma ci ascolterà qualcuno? Sì, grazie di farci capire che voi ci siete. E quindi ecco, torniamo con i nostri ospiti perché abbiamo avuto ecco questa prima parte della puntata con la nostra amica Manuela, ma noi, come vi dicevo all'inizio della trasmissione, la stanza gremisce proprio, cioè abbiamo un sacco di gente con noi, è tutta gente bella come diceva Leandro, e abbiamo un compositore, una regista. Bravo, grazie che ci dai i primi indizi, abbiamo delle persone più che di gente, perché per gente ha un po' questo significato un po' impersonale, invece qui abbiamo proprio persone, degli esseri umani molto interessanti, molto particolari, e abbiamo con noi la nostra cara amica Denise. Buonasera. E il nostro amico Nicola. Salve, buonasera a tutti. Che Nicola, lo diciamo adesso, sveliamo, è stato il mio personal assistant con internet fino a mo, grazie a sta Nicola. Però ecco, come diceva Leandro, Nicola è il compositore e invece Denise è la regista. Ma la regista di cosa? Di uno spettacolo? Sì, delle Piccole Canaglie che andranno in scena questo weekend, il 7 e l'8 febbraio, con Matilda & Co., la storia di una piccola bimba con grandissimi doti, poco valutata dai suoi genitori e che riesce a farsi spazio nella sua vita attraverso la scuola e attraverso una persona che crede in lei. Bene, questo infatti si ricollega molto bene, molto sì, in sintonia con quello che diceva Manuela, quindi la necessità di avere gli altri accanto a noi, altri che ci guidano, dell'importanza di avere l'altro accanto che ci ricorda che noi siamo delle persone con tutti i nostri difetti, ma per fortuna con tutte le nostre risorse anche. Sono essenziali. E invece cos'è questa storia di Matilda? Cos'è questo spettacolo? È uno spettacolo prettamente per bambini? No, Matilda è uno spettacolo fatto fondamentalmente da bambini, okay, con collaborazione di adulti. Ci sono circa 5-6 attori adulti. Dietro le scene sono prettamente quasi tutti adulti. Gli attori sono una sessantina di bambini e adolescenti, ma non è solo per adulti, non è solo per bambini, certo. Anzi, probabilmente anche per nonni e per tutti, non ha età. Assolutamente. E da dove viene questo progetto dello spettacolo? Perché prima ci hai detto l'associazione Le Piccole Canaglie. Sì, l'associazione Le Piccole Canaglie è un'associazione che ormai sono quasi 8 anni che c'è e che mette in scena spettacoli, sempre dei musical, perché è molto più semplice lavorare con i bambini attraverso la musica, attraverso le canzoni. E con Nicola sono ormai 4 anni, 5 che lavoriamo, e lui è il nostro compositore, fa le musiche, mette le parole e ci aiuta ed è praticamente il perno dello spettacolo. Bene, mi piace questa cosa che dice che la musica ti aiuta a parlare, cioè che la musica è quel linguaggio che i bambini comprendono molto più facilmente. In effetti devo dirti che personalmente vedere i bambini che ricantano le canzoni, le rigiocano, è la parte più emozionante per me, perché ti rendi conto quanto penetra nei ragazzini il messaggio musicale. E come fai a comporre un musical? Grazie a Denise. Se non avessi Denise, ecco, non potrei farlo. Quindi vi completate a vicenda in questa funzione. È il realizzatore dei sogni. Io ho un sogno e lui anche se in realtà io non ho fate, preferisco avere una strega vicino che mi aiuta perché c'è bisogno di... Ecco, Nicola è uno proprio anticonformista, io ve lo dico. No, già in realtà è la... Mi piace. No, tu sei una fata. Ah, no, meno male. Lei è un genio che ci trascina tutti. Ha visto che pure tu sei romantico, Nicola, ecco. E no, in realtà è un lavoro molto interessante perché grazie ai testi che scrive Denise... che c'è bisogno di focalizzare quel tipo di esperienza. Io la cosa interessante del scrivere musica per i musical è che non sono libero di esprimere quello che sento in quel momento, mm-hmm. ma devo focalizzare su quello che sente il personaggio della storia o i personaggi della storia, per cui mi costringe a rivedere dei sentimenti attraverso... Quindi tu dai una forma, però sei all'interno di una cornice. Sono all'interno di una cornice che mi definisce Denise. E tu dici, Denise, come scrivi le parti dei personaggi? Cosa vuol dire fare il regista? Sono due cose un po' diverse, uh-huh. e si identificano entrambe con me, perché siamo una compagnia teatrale di semi-professionisti, non siamo completamente professionisti, quindi ci dobbiamo arrangiare. Sì, tirate fuori quelle risorse famose. Scrivere un testo teatrale richiede un grande studio dietro, un'elaborazione del testo originale, uno studio approfondito della psicologia del personaggio. Non è così semplice, però è estremamente la parte più emozionante dopo la regia e la conduzione dei bambini, sì. E quindi questi spettacoli vengono messi in scena proprio a Bruxelles, sono in lingua italiana? Sono spettacoli fatti in italiano, particolarmente per gli italiani oppure per tutti coloro che amano la cultura italiana. E sono spettacoli che sono stati elaborati da una compagnia di bambini non necessariamente italiani, ma che comunque abbiano genitori, diciamo famiglia mezza italiana, sì, mezza chiaro, sì. di un'altra nazionalità, quindi che hanno esigenze in questo senso di sviluppare e di portare un po' di cultura italiana al loro proprio figlio o figlia, e poi per stimolare ancora di più in quei bambini di entrambi i genitori italiani la propria cultura. In realtà le nostre, parlo di cultura perché in realtà i testi scritti chiudono un po' la cultura italiana, anche se Matilda in realtà è un testo scritto da Ronald Dahl, quindi con tutti i riferimenti inglesi o americani, noi l'abbiamo trasformato in riferimenti italiani, battute italiane e riferimenti di cultura generale italiana. Ho capito. Senti, invece volevo chiederti dove va in scena lo spettacolo? Lo spettacolo andrà in scena questo weekend, il 7 e l'8 febbraio. Il 7 sarà uno spettacolo serale, mentre l'8 è più per bambini più piccoli, se volete, e infatti sarà in scena alle 3:30. Al Teatro Lumen, vicino Place Flaget. D'accordo, quindi sabato e domenica, annotatevelo tutti, ragazzi e ragazze che ci ascoltate, genitori, grandi, piccole, nonni pure. I nonni. Andate a vedere lo spettacolo Matilde & Co. E tra l'altro questo spettacolo, appunto, dicevamo che è una colonna sonora che adesso scopriremo insieme a Leandro, perché Nicola ci ha portato, per fortuna, un mix di questo, della parte musicale, che ascoltiamo insieme volentieri. Grazie. insieme su i colori dell'anima. Eccoci in studio, buonasera a tutti dai colori dell'anima. Oggi 2 febbraio 2015, in studio un insieme di ospiti veramente molto interessanti. Si parla un po' dello sviluppo personale, del mettersi in gioco, di mettersi un po', ecco, sì, in mezzo al cambiamento, di prendersi cura di se stessi anche, e grazie agli altri. E abbiamo un po' parlato, abbiamo appena sentito queste musiche meravigliose dello spettacolo di Matilde & Co, che andrà in scena il 7 e l'8 febbraio a Bruxelles, a Lumen, al Teatro Lumen. Grazie Denise per avermelo ricordato. Chi fosse interessato si può collegare al sito, ricordiamolo Denise, www.lepiccolecanaglie.eu. benissimo, grazie. Senti, io stavamo facendo una riflessione qui, sia tu, io e Emanuela, dell'importanza anche appunto del teatro, sia il teatro, l'importanza didattica e formativa del teatro, ma anche appunto fare teatro come un po' conoscersi, conoscere le proprie, non so, gestire le proprie emozioni su un palco. Come? Assolutamente, è una delle grandi, come si defi? Delle sfide, grazie, terribile, che si possono affrontare attraverso il teatro, anche raggiungere, perché una cosa che insegna il teatro soprattutto ai bambini è quella di avere una responsabilità di quello che fa il proprio corpo. Molto spesso siamo presi dal nervosismo, siamo presi dall'agitazione, dallo stress. Il bambino, quando entra in scena, ha la capacità di trovare il suo spazio e il suo tempo, è autonomo, e tutto questo grazie proprio al lavoro duro di prove e insegnamento che si fa attraverso la cultura del teatro. Bene, cioè quindi questo profilo della responsabilizzazione, e anche lì vedo un selfie nuovamente. Il bambino è assolutamente autonomo con noi. Quando il bambino entra in scena, sa il momento in cui deve entrare in scena, sa che cosa deve dire. È difficile che si scordino le loro battute, perché è un lavoro molto duro, è stato fatto su parecchi mesi. Purtroppo non si può fare a livello professionale, loro hanno una scuola, noi abbiamo un lavoro, quindi comunque limitato nel tempo, però rispetto alla quantità di tempo che riusciamo a dedicare a questa formazione, io trovo che la loro preparazione sia eccellente. E siete una grande squadra, dicevi. La squadra è composta da circa tra i 40 e i 60 bambini. Beh, ogni sì, spettacolo. Quindi c'è un bel lavoro dietro, di sicuro. Abbiamo avuto un tocco di 70 bambini con Alice, bambini, ragazzi, perché abbiamo bambini dai 4 a ragazzi a 17-18 anni, sì. Anche quella è una sfida. È una sfida nel senso che riusciamo a far lavorare insieme bambini con età così differente. Diverse. E problemi di crescita differenti. Quello che io insisto, perché molto spesso le mamme dicono: ma mio figlio si annoia a stare con bambini più piccoli o viceversa. E io trovo invece molto stimolante il fatto di insegnare ai bambini a provare rispetto per i ragazzi più grandi, e i ragazzi più grandi provare un senso di responsabilità nei confronti dei bambini più piccoli. Io ogni volta dico loro: io non sono dietro le quinte per mettervi in scena, ma voi dovete sapere chi è in scena in quel momento e aiutare a coordinare l'entrata in scena nel momento giusto. Quindi anche farli sentire utili, farli sentire che anche loro hanno un ruolo importante, che non c'è sempre lì la mammina che deve... Ma un ruolo che importante, sì. Le mamme sono fuori, certo, dalla scena. E poi mi piace anche quello che hai detto tu, appunto l'importanza di imparare a stare con gli altri, perché ormai è così comune rimanere semplicemente davanti a un teleschermo, lì alle console, ai videogame, a queste robe, che per carità ogni tanto ci stanno pure, però dovrebbe essere, insomma, bisognerebbe coniugare anche un po' l'aspetto sociale. Assolutamente, io credo che i bambini abbiano il diritto di sognare, ma credo che i loro sogni debbano essere canalizzati in una forma di arte, perché altrimenti sono fine a loro stessi e non vengono sviluppati, mentre attraverso l'arte del teatro si ha uno sviluppo concreto di quello che può un sogno fare. E che, tra queste parole volevo tornare appunto alla sfida, alla realizzazione, alla formazione, e volevo un attimo che Emanuela ritornasse tra di noi per raccontarci un po', perché lei segue, ascolta con due occhi e dice sì sì, sono d'accordo, c'è feeling in questa stanza. Sì, veramente c'è una bellissima atmosfera, ma mentre Denise parlava io continuavo a scrivere, perché diceva talmente tante cose assolutamente in linea con un percorso di coaching. La parola chiave è l'autonomia, quindi i bambini che vengono accompagnati da piccoli a un percorso di autonomia hanno una grande fortuna, perché spesso ci ritroviamo adulti e non sappiamo neanche cosa significhi autonomia, che è veramente questa grande possibilità che abbiamo di riscegliere le nostre regole. Ma anzitutto dobbiamo capire quali sono quelle che stiamo giocando. Quindi qual è il campo e quali sono le regole che qualcun altro a volte ci ha dato, per poi risceglierle. E le altre parole che mi hanno colpito sono la possibilità di entrare in scena ed essere protagonisti, perché molte volte, e questo un percorso di coaching aiuta a farlo, subiamo le nostre vite, cioè ci ritroviamo a vivere come i cricetini dentro la gabbietta senza scegliere quello che realmente desideriamo, perché non siamo stati abituati alla cultura della scelta. Parlo di me, adesso sono alla soglia dei miei anni. No. Ma noi li abbiamo già passati. 40 non. Ma sì. No, suonati ragazzi. L'evoluzione, il cambiamento, no, quello c'ha tutte le età di sicuro, quindi. E sono stata abituata a una cultura dove il mio papà e la mia mamma hanno sempre risolto per me i problemi, e quindi ritrovarsi a poter veramente pensare con la propria testa è una grandissima opportunità. E in un percorso come un selfie alla tua anima veramente c'è questa possibilità di ripensare a cosa si sta vivendo e a come si vuol fare diventare quello che si sta vivendo. Bene, senti Manuela, ma ci devi dire come si fa ad avere più informazioni, perché tu mi dicevi che ci sono questi due aperitivi ai sì. quali si può partecipare. Ricordiamo le date velocemente degli aperitivi. Sono il 12 febbraio e il 13 febbraio, quindi vicinissimi. Benissimo, rispettivamente. Quindi se non potete andare il 12 andate il 13, quindi esatto. Allora, tra l'altro dopo il lavoro, in un momento di relax, c'è un... andate a fare un selfie alla vostra anima. Esatto, ecco, importante registrarsi, perché i posti sono limitati, quindi per registrarsi è assolutamente sufficiente mandare un'email a info@coachingstyleclub.com. Benissimo. Ecco, in ogni caso c'è il sito internet dove... che noi abbiamo già messo sulla nostra pagina Facebook, cari amici. E allora, voi sapete che praticamente, insomma, questa trasmissione si chiama I colori dell'anima proprio perché, insomma, si cerca un pochettino di andare in profondità, di capire un po' come sono i nostri ospiti, che tipo di persone sono. Quindi, allora, chiediamo ai nostri carissimi ospiti di scegliere il colore della puntata, perché come sapete alla fine della trasmissione chiediamo ai nostri ospiti di darci un colore che loro preferiscono, oppure un colore che denota, insomma, lo stato d'animo in cui si vive, eccetera. Allora, la parola a voi. Io vorrei che cominciassero i nostri amici artistici. Vorrei tanto sentire da Denise e da Nicola. Nicola, mi dispiace che non abbiamo avuto tempo insieme di affrontare. Affronteremo. Però vi prego, tornate, perché è veramente molto interessante, sia l'associazione, sia appunto fare il teatro, è una cosa che mi ha sempre incuriosito, quindi vi prego tornate. E vorremmo questo colore, che colore date un po' all'anima a questa serata, a questa passione che avete. Stasera è rossa. È rosso. Per te? Per me è arancione. Ah, bene, allora abbiamo un rosso chiaro. Ma non perché è meno potente del rosso, ma semplicemente perché è più passionale, nel senso tenero della, ok, della, allora, la non è sessuale. Benissimo, ci la piace la locandina di Matilde Arancione. Hai visto? Assolutamente, ecco, tutto torna perché la locandina è arancione. Grazie mille di essere state con noi. Grazie, Manuela, invece tu che colore ci dai? Perché questo percorso, questo coaching, che colore ha? Aggiungiamo un colore all'arcobaleno di questa sera, che è il verde. Bellamare, perché il verde è speranza, perché il verde apre gli spazi e ci fa ritrovare in contatto con la natura vera di noi stessi. Grazie mille Manuela, grazie a tutti per essere stati con noi, grazie a tutti voi che ci avete sopportato per quest'ora insieme, e vi aspettiamo lunedì prossimo sempre con i colori dell'anima. Tre colori, verde, bianco e rosso, viva l'Italia, e che questo presidente porti veramente un soffio di grande libertà e giustizia in questo paese che ne ha tanto bisogno. E lasciamo, e salutiamo tutti quanti con una canzone che voglio dedicare in particolare a Tiziana che ci sta ascoltando. È una canzone di Tina Turner, You're Simply the Best.